festa della mamma. Il dondolio delle onde non mi dà tregua. Provo a prendere in mano il timone, ma non riesco evidentemente a fare le manovre necessarie per rendere la barca più stabile. Temo che prima o poi mi capotterò. Il problema è che direzione del vento e direzione del mare non sono la stessa e io sono impreparato a gestire tutto questo. Sì, lo so, dovevo aspettarmelo. E sì, so anche che bisognerebbe preparare tutto prima di imbarcarsi e mettersi in acqua. Ma ormai ci sono dentro ed è inutile pensare a cosa sarebbe stato meglio fare o non fare. D'altra parte, la vita mi ha già sorpreso abbastanza, anche se non è nel modo che pensavo e soprattutto speravo. Quindi tanto vale provare a fare del mio meglio e evitare di trovarmi in acqua nelle peggiori condizioni possibili. A volte mi sembra di essere un protagonista di un programma in televisione. Spengo per un istante e riaccendo immediatamente, ma quel programma non c'è più. Succede quando penso che non potrò più abbracciarti, non potrò più avere una tua carezza, una fitta che trafigge l'anima. A volte non riesco nemmeno a respirare. Io ci provo, mamma, a ragionare, ma non ci riesco. E sai quando questa sensazione di impotenza si amplifica? Il giorno della festa della mamma, che da 4 anni a questa parte per me è diventata una tortura insopportabile. Sono arrivato al punto quasi di odiarla, questa festa. Mi ferisce vedere tutte quelle persone che vanno felice dal fioraio a comprare mazzi di fiori per le loro mamme, quando poi magari durante tutti gli altri giorni è come se non esistessero, magari le trattano anche male, rispondono come non dovrebbero. E allora mi domando di nuovo, per l'ennesima volta, perché? Ecco, ogni giorno della festa della mamma mi faccio questa domanda senza trovare una risposta. Eppure deve esistere da qualche parte una ragione, un motivo, o forse no, nel senso che non esiste una sola causa, ma una nebulosa, indistinta di perché, che comunque fatico a capire, nel senso ci provo, ma poi lascio perdere. Tanto qualunque risposta io possa ricevere non ti riporterà, certo, da me. Io sento la tua mancanza costante nel cuore, un vuoto incommabile, più degli altri giorni. Mi manchi, ti hanno allontanato da me nel modo peggiore. No, non posso dimenticarlo. E nel giorno dedicato a te e a tutte le mamme del mondo, tutto questo sì, amplifica. Mi sento impotente, mamma. Non ce la faccio più. Lo sai, mamma, esiste per me ormai un prima e un dopo, che come una lama affilata è intervenuta nella mia vita, dividendola in due parti. La cosa più assurda è che questi due posti sembra non aver alcun connessione. Tu non ci sei più. Tutto ciò che c'è adesso assomiglia a nulla, come se fosse un'altra vita, se così possiamo definirla, che possa spiegarti così. Io sono in alto su una torre e vedo muoversi persone e cose a decine di metri di distanza, senza sentire alcunché. Vedo passare la vita sotto, mentre io vivo una sorta di esistenza parallela, una traversata solitaria verso non so neanch'io cosa.